Tony, avanti Tony. Eccomi qui da Tony, eccomi qui. No, dico, vi sento forte e chiaro e vi copio su Sassari, tranquillamente, niente. Capa, capa, io sono in parapubile e mi sto muovendo, adesso non so come mi sentiate voi, però. Io vi sento forte e chiaro, riesco a copiarvi da Sassari, tu sei a Osilo, quindi ho una turbo come antenna e niente, riesco a copiarti bene. Da dove modula l'amico Tony, interrogativo? Io sono in AM, in questo momento sono Corte Santa Maria, in salita verso la città. No, scusa già, credevo fosse di Ex, Sud Italia. Tony, io sono da Sassari, in questo momento in salita verso via Roma. Riesco a copiarvi un po' tutti, pur essendo in mobilità con la turbo sul tetto. State calpestando a Tony, state calpestando a Tony che sta parlando ed è in macchina dentro Sassari. Cosa hai detto Tony? Stai scendendo la roba? Sto salendo verso Sassari da Tony, eccomi qui, sto salendo verso Sassari su via Roma e per avere anche la conferma che vi copio tutti, anche chi è su Osilo. Ho capito, sei in via Roma, te c'è una faccia. Dimmi una cosa, una domanda così, ma tu per caso hai un appunto, un grande punto? Range Rover nero, sport, vetri scuri, tutto quanto. Non ho capito, no, sei tu, perché abbiamo dentro Sassari un grande punto, ogni tanto che vediamo. Col collega Gianni Rotterum ci abbiamo posto la domanda chi è, e quindi adesso ne ho approfittato a chiederti se sei tu, va bene, non sei tu. Molto bene Tony, cambio per cosa lì, come cacchio ti chiami, ogni tanto mi dico la mia tifo, Rata Pignara, vai. Sì, eravamo sull'altro canale a fare delle prove. Mi pare che Gianni ci ha sentito. Gianni, dove sei? Ancora Osilo? Sì, ma sto scendendo Marco, sto scendendo perché poi alle 7:30 devo andare a prendere Elena, quindi mi sto incamminando piano piano senza correre, tranquillo. Sì, ti ho sentito uno splatter, non so se eri tu, e sono andato a guardare chi era, ho detto se è Marco, cazzo, se è arrivata una bomba. Sì, stavo facendo sentire a Giulio come sarebbe il suo, quell'apparato si apre il trimmer della M e si ritoglie quella spugnetta che è troppo pressata, c'è una spugnetta che l'hanno pressata, ci sono saliti di peso pressandola, esagerati. Io ho lasciato la retina microforata di serie e poi un feltrino di quei microfoni DMC, normale feltrino, no, tanto da non sputtarci dentro alla capsula. Ed è sì, buono, una cosa buona da fare lì. Ma tu stai parlando del microfono normale o di quello amplificato che hai comprato? No, microfono di serie del 6009, alias 5005. Poi vabbè, se li metti più 5 e tutti gli altri va ancora meglio. Asco, ma me lo puoi ordinare tu che lo voglio mettere sul 3009? Sì, potrei, naturalmente devo andare a ricaricare la prepagata, siccome sai che in casa abbiamo una situazione un po' particolare, no? Che quasi non può star sola, no? Devo trovare il cambio. Dai, poi ti spiego. Ho capito Marco, dai, non fa niente, se hai problemi non c'è nessun problema. Sì, da Tony, posso interferire un attimino e mettermi un attimino sulla vostra conversazione per capire se è Gianni che è Ausilo? Non lo so Tony se ti sente Gianni Doppio Rum, hai sentito a Tony Gianni? No, negativo. Non ti sente, no Tony. Che Gianni è in movimento? Sì, sta scendendo da Osilo verso Sassari. Ragazzi, la ricezione a contrazione con le macchine in movimento. Aspetta un attimo, Kappa, aspetta un attimo, c'è un questio qua. Cosa hai detto Tony? Non ho capito, ti hanno sovramodulato. Qui, no, cercavo di capire se Gianni c'è un movimento che in arrivo da Osilo, se eventualmente mi sentiva, cercare di vedere la ricezione, era per capire se noi in movimento ci sentiamo, perché voi siete tutti con apparato fisso, Gianni. Sì, siamo tutti con l'apparato fisso, Tony. Io sono nella collinetta praticamente. veramente di serrasse calda tra Ogilo e Sassari in mezzo, ho capito. E Gianni invece a Ogilo sta scendendo da Ogilo per Sassari, vediamo un po' se ti ha sentito. Claudio, non è pratico, mentre parlavi stava rispondendo, non è pratico ancora col... Roger. Ho capito. Tony, aspetta quando finiamo di parlare così parli tu, se no ci accavalliamo non si capisce niente. Vediamo dove è arrivato Gianni Doppio Room. Io sono dentro il paese, sono a Ogilo, dentro il paese dove c'è il capo d'antico. Ah, ho capito. Gianni il profeta, ci sei? Eccomi. Sì, quello che sentivo sotto. In effetti era Tony che non... evidentemente non facciamo finire il passaggio, dai. Quello che ho sentito poco fa sotto Claudio, a parte la propagazione che c'era. Io sono tutto a posto, dai, vi sto ascoltando tutti. Proseguiamo. Vai Marco. Vabbè, bianco per me, dai, tanto sto andando e venendo, è inutile, non riesco a stare seduto qua. Riprendete voi. Natalino c'è ancora? Sì, ma sto studiando, vi ascolto, Marco. Dopo ti interrogo, Io della... interrogami. Chi è che chiama la Nord Italia? Chi è avanti? Si mettono a parlare. Stanno arrivando una bomba, non so da dove sia, vabbè, comunque, ho scelto di a Natalino o Marco, che Natalino deve bisognare che stavolta, e così ce lo portiamo in altura. Come stavo dicendo, non so, vabbè, avanti Gianni. Io adesso sono uscito da Ogilo e mi sto rimettendo nelle curve. Nelle curve, ha già fatto il bavano, sicuri, perché prima della strada nuova ho iniziato io tutte le sante mattine. Facevo Ogilo, Nubi e Martis, facevo lì, dal Bunari, non ha giuito poco di niente, la domenica Manzana in Cunetta, vacca del Dari. Domenica mattina, tu mi credi che io per tantissimi anni, quando ero di servizio la domenica, allora non c'era il cortese, non c'era niente, io avevo paura andare a lavorare. Perché tu immagini, io uscivo alle 6:30 di casa, a 7:15, tutti quelli che rientravano alla discoteca, o erano a bordo Cunetta a Buttendi, o qualcheduno la cattava dormito in Cunetta, qualche macchina appoggiata in Cunetta, risse, guardi, butta giù via. Adesso quando c'ero io è salita la forestale, è salito questo tipo in moto, un pazzo! Con una di quelle moto da strada ha saltato e poi a tutto manetta ha girato di colpo perché ha visto la forestale e se ne è tornato indietro, sempre infernale. Ma cos'è la moto da strada di quelle da strada? Ogni tanto già si sente anche qua che scorratta, qualche giorno ne trovano qualcuno attaccato all'albero, vedrai tu. Sì, avanti Tony. Sì, io sono Claudio Sparviero, quello che sta scendendo da Ogilo è Gianni Doppio Room in macchina, poi c'è Marco Condor e Gianni il Profeta, che sicuramente è quello che ti sente meglio di tutti. Vai Gianni il Profeta. Gheia. Sì, non so se sei fermo in movimento, ogni tanto il tuo segnale sale e scende, dai. Adesso non so se ti sei fermato oppure sei ancora in movimento. Gianni, sono fermo ma ti porto forte. Bene. Mezzo guy, come si dice. Sì, vabbè, tornando alla strada vecchia di Ogilo, tempo addietro la facevo spesso, dai. Non ci salivo a cannone, però era bello da fare, dai. Poi tutta Ogilo, Nuovi, compagnia cantante, un bel percorso qua. Puoi dire a me, l'ho fatta anche molto io quella, però la buna di Ogilo è molto pericolosa, sono delle uscite, escono macchine, dei fattori, a volte ti attraversano cani, è molto pericolosa, molto parecchio ancora, perché non è mai stata praticamente modificata, è così come è nata tanti anni fa, eppure soprattutto la domenica. mica salgono le moto, 7, 8, 10, anche 15, tutti correndo, andando e tornando, e qualche giorno vedrai che fatene di virilli. Lo so, lo so. Oh, yeah. Prima facevano anche la cronoscalata, ti ricordi? Sì. Adesso se ne è persa traccia. Infatti prima di entrare in paese ci vedevano tutti i segnali dei birilli. Sì, ho fatto come assistente al radio un sacco di volte. L'abbiamo fatta con Romano e Giuseppe Carboni, un sacco di anni l'abbiamo fatta a Bunariuscio, assistente al radio, facevamo cronometristi, ma sono venuti a mancare un sacco di personaggi come Toremano che non sta più correndo, la buona Emma di Ottavio Secchi che è morto l'anno scorso, il figlio di Uccio con anche Maglione stesso lo faceva, un sacco di sardi, adesso quella che va di più è quella di Nuoro, a Nuoro fanno lo no, qua non lo stanno più facendo, e poi la solita scarapicciata che sappiamo tutti. Avanti Gianni Doppio, lo so, ce l'abbiamo come promemoria nel coso, insomma, della radioamatoria. Claudio, aspetta, sta parlando Gianni. No, ma lui faceva parte del nostro gruppo, capito, perché era sempre commissario di percorso, quindi collaborava molto con noi. Io, prepista, ma poi faceva commissario di percorso, quindi è chiaro, il commissario di percorso deve fare la prepista per forza. Ci chiama commissario di percorso per quello, perché deve constatare se il percorso è in ordine per poter iniziare la gara. Ma sperando che faccia con la prepista che altri che corre. Io, non è proprio così. Perché lui lo faceva perché era un pazzo, gli altri non erano pazzi. E perché lo sto parlando male, ti sto dicendo che era un pazzo in macchina, non è che c'era la testa sana, era un pazzo, e piaceva correre, si azzardava a fare cose che altri non facevano, anche se per carità, era molto bravo, però a volte lo dicevamo, ma era quella Peugeot 306 che la faceva volare quando faceva la prepista, però la sapeva portare. Sì, abbastanza ne ha avuto incidenti, però non è mai passato, e poi vedi come succede, una distrazione in macchina non ha mai avuto problemi, invece con la moto ci è rimasto, vabbè, no, a me a volte mi diceva dai andiamo facciamo un controllo assieme, no, non vai a rasura, e a me mi trovi qua al primo intermedio, quando vieni mi dici se tutto è a posto, ma io non mi bruciavo in macchina con lei, come notte grazie di farsi a venire di Cipiro, perché veniva a meningite, vai lo profeta. Eia, sì, c'era Tony che voleva chiedere qualcosa, avanti tu. Come qui ci sono, grazie per la parola, no, volevo chiedere una cosa a Claudio, credo che, se ben mi ricordo, forse ci siamo conosciuti ultimamente. Non so Tony, non mi ricordo in quale occasione ci siamo conosciuti, dimmi. Allora, vediamo un attimo se vi copiate, qualcuno che parla con me su Radio CB mi ha detto che ci siamo conosciuti proprio di fronte a casa mia, può essere l'ex proprietario del bar della stazione? No, ti stai confondendo con un'altra persona, io so anche chi è, ma no, non te lo dico qua. L'ex proprietario del bar della stazione è un CB che sta entrando poco, ma non si chiama Claudio, si chiama Giuseppe. Ci sono adesso, perfetto, cambio. Sì, beh, quando parli dell'ex proprietario del bar della stazione è mitico, è Giuseppe, io sono Claudio, ma poi il nome non mi dice niente. Quindi di quelli che conosco, che ho conosciuto anche tempo fa me li ricordo, ma questo Tony non mi dice niente. Sicuramente tu hai conosciuto Giuseppe. Avanti Gianni. Ehi, dai. Anda bene. Vabbè, che dire, sono quasi arrivito, sono quasi alle ultime curve, sto andando piano piano. Perché non ho voglia di correre, io sono nel muretto che hai detto tu adesso. Nel muretto che ho detto io, se stai scendendo dal Bunar, il muretto non ce n'è, il muretto. Il muretto inizia dopo la rotonda, quando si già c'è la secca. C'è un muretto a secco qua. A secco. A secco, di bonghia, a secco. Ho detto, quando tu stai, inizi l'inizio di Serra Secca, dalla parte bassa, se tu scendendo dal Bunari, giri a sinistra per Serra Secca. Quando giri a sinistra, come inizi a salire per Serra Secca, la tua sinistra c'è un muro, ma non a secco, in pietre, a secco, come quelli che vedi nella strada, un muro tutto in pietre, che sembra granito. Io sono lì dentro. Cava, allora non parlo quando... Io glielo vedo segnare, se fa lo scalo, non ti preoccupare, sei vicino. Poi se stai scendendo dal Bunari, l'ultima curva del Bunari, guarda di fronte a te e vedi la casa. Cava, le antenne non le vedi perché sono dietro, ma la casa già si vede da lì, è abbastanza visiva. Io vi lascio da soli, vi lascio continuare, mi intrometto un attimo, sono arrivato sulla casa alle querce, da questo momento comunico alle querce. Non vedi la casa? Boh, non so quale, di che colore è, boh. È beige, giallino beige, non vedi, ce l'hai davanti, ti vedo scendendo. E allora già l'ho visto. Oh yeah. Che si vedono le antenne anche di Claudio, ma lui ce l'ha di al lato contrario, tu le vedi quando passi uno scorrimento veloce, allora sì, ma lui è dall'altra parte, quindi ce li ha dietro. Beh, scendendo dalla vecchia strada sì, gli viene più difficile. Ma la casa già si vede che ce l'ha davanti. Infatti ho fatto la strada vecchia io. Ma l'hai vista la casa scendendo nell'ultima curva prima di girare verso Serra Secca davanti a te in alto, dalla collinetta, ma l'hai vista la casa? Bussasso se è quella, ce n'era una con lo salmone e una più giù che la pesce. Quella con lo salmone, dice Giorrenna, quella beige era mia. Cava cava, allora l'ho vista. Sono tutte e due quasi uguali. Sono una a 50 metri una all'altra. Esatto. Adesso sai anche dove sono, hai visto. Va bene, a chi tocca? Lu Profeta, ciao Tony, un saluto e grazie per essere entrato e ci sentiamo alle prossime. Ho visto che hai salutato, ma stavo parlando Gianni che ti ha tutto calpestato e ce l'ho vicino. Avanti il Profeta o il Prefetta, come ti chiami? Non so. Colao. Oh, yeah. Ciao Carlo, ben rientrato. Sì, l'ho sentito sopra Tony che dice che si stava fermando in zona delle querce. Allora, salutoni alle prossime, dai. Sì, Gianni, lo sento, ho aumentato anche il segnale, evidentemente si sta avvicinando al centro, dai. Avanti già. No, sono a Serra Secca ancora, Gianni, sono a Serra Secca, sto uscendo dall'incrocio per andare a Usi. Bene, mera. A Carlo il Mike. Gianni, quindi sei già alle porte di Sassari. Dopo, insomma, in mezzo ai palazzi, già ti sento lo stesso io, ovunque tu sia, Sassari, anche in mezzo ai palazzi. Tony, se ci sei ancora, ti sentivo anche io perché ero in ascolto mentre mi preparavo. Da quando eri a Santa Maria ti ho sempre sentito. Ciao, ce la risentiamo se sei ancora in ascolto. Riprendi, Claudio. Ci sono, vi saluto ragazzi, sono a Monte Bianchino. Cambio. Adesso mi arrivi in fondo a scala, allora sei vicino a me. Quadrato e poi vado. Sei vicino a me, Tony. Mi sta tra... Sì, io sono alle querce, ho la casa qui. Siamo uno di fronte all'altro allora. Io sono a Serra Secca. Serra Secca alta là, di fronte dove c'è Renna. Faccio invece il campetto e poi scendo sempre giù oppure scendo da Monte Bianchino. Sì, ci siamo vicini, se fondo scala. Siamo uno di fronte all'altro, praticamente ci separa proprio la strada di Serra Secca, ma tu sei di fronte a me, Monte Bianchino. Va bene, signori, io vi chiedo permesso un attimo di QRX perché devo fare una cosa e ci sentiamo dopo. Ok, vai Carlo. Ah sì, Tony, anche per me sei vicino qua. Io sono tra via Luna e Sole e diciamo è via degli astronauti e quindi in linea d'aria sei molto vicino a me. Però io riesco a sentire tutti dentro Sassari, anche in mezzo ai palazzi, per copiato. Cos'è questo macello? Un po' di propagazione evidentemente, qualcuno da fuori. Tony, ma tu la radio in casa non ce l'hai? No, io ecco da Tony, non, radio in casa no, poi sono proprio un novellino, sto imparando, ce l'ho più per l'infotraffico che sono sempre in autostrada. Ok, ma se la metti in casa quando rientri magari puoi fare esperienza con noi, tanto tutte le sere ci trovi qua sul 10 a fare quattro chiacchiere, quindi se ne aggiunge qualcuno ben venga. Volentieri. Ragazzi, io vi lascio tutti, vi saluto e chiudo che devo andare a prepararmi anch'io. Gianni, lo passo agli altri. Campa, c'è qualcuno che chiama. Ciao Tony, ci sentiamo. Natalino, ma lo sai a quanto mi è salita? Eh? A 90 sì. E allora ce l'ha dato bene la Natalina. Vuol dire, ma a me si maniuca che cos'è in più, ma sta in picco. Ui, vabbè, già va bene comunque così. Già va bene, se ti sale a quel livello lì va bene. Avanti Carlos! La tua radio ho avuto diciamo poco tempo per accenderla, capito? Però già la rimetto a posto, appena mi mandano il contatto di questa persona che pare sia un genietto, diciamo, la faccio mettere a posto quella radio perché è veramente ben trattata, capito? È un peccato a lasciarla così. Però a trasmettere trasmette, mi sa, vero Gianni, me lo confermi? Io non l'ho sentita, però dopo che le ha cambiato i finali audio, dice che sì, che trasmetteva, però non esce di watt. Ho capito, comunque spero di riuscire a rimetterla a posto, dai, per tenerla in vita ancora qualche anno. Ma quella, se riesci a metterla a posto, ti dura, è interessante che la tratti bene. A me, vabbè, dopo tanto che ce l'avevo, ha cominciato a gracchiarmi la radio, tu lo sai benissimo, no, com'è andata, non è che io gli ho fatto nulla, non gli ho attaccato nulla, né lineare né nulla, ha cominciato così a gracchiare mentre parlavo, poi la modulazione si è andata del tutto, non si sentiva manco il QRM, abbiamo cambiato i finali, sia audio che i finali e il prefinale, non va lo stesso. Vabbè, speriamo un po', gliela lascerò appena mi mandano il contatto, anzi se Claudio in ascolto, se mi manda quel contatto là del suo amico di Borore, così lo contatto e quando è possibile gliela porto, capito? C'è qualcuno sotto in banda laterale? Sei in banda che ha fatto canale. Carlos, eccoci qua, sì, ti sento già. Uscendo te ne stai? Perché stasera c'è quella manifestazione Monumenti Aperti, c'ho tutta la famiglia che sono in giro, adesso li raggiungo tra un po', capite? Ce ne andiamo a cena fuori, però stiamo al centro, capite? Già va bene lo stesso. Ebbene, provata quella pizzeria che ti ho detto. Beh già. Ho detto, l'hai provata quella pizzeria che ti ho detto? Ah, ho capito. No, ancora no. Non ho avuto il tempo, ma già ci voglio andare. Sicuramente quella rientrando dal mare, l'Alghero, la voglio provare perché ancora non ci sono andato, capito? Ci vado perché ne ho sentito parlare bene da tante persone, dice che la fanno buona la pizza. Sì, poi oltretutto sono gentili, ti offrono il pane, prima il pane con l'olio e il sale, poi alla fine ti danno la pasta della pizza con la Nutella, cioè si fanno voler bene, dai. Sì, la gentilezza non guasta mai, comunque. No, stasera io ho prenotato da Monte Cristo, non so se conosci quel localino dietro in via Arborea, capito? Dopo la pandemia pare che abbiano riaperto quasi tutti lì al centro, e quello è uno dei locali dove insomma si mangia discretamente, capito? E non spendi neanche tanto. Ho capito, dai. E allora buon divertimento, dai. Io adesso devo andare a prendere la mia compagna e poi non vedremo cosa fare, se non è stanca la voce ne usciamo. Ho capito. Natalino, non studiare troppo, tanto oggi è sabato sera, rilassati e stai con noi in compagnia. Natalino sta facendo il bravo alunno. Carufà, raga, carufà. Come sei arrivato già? No, sono al quadrato io, mi sono fermato 5 minuti, adesso sto ripartendo perché vado a prendere a lì, al lavoro. E poi vedremo, se ha voglia, se non è stanco. Capito, sì, che saluto Marco, che prima l'ho sentito che è entrato, so che è impegnato. Gianni, ci sei ancora tu, Lu Profeta con la O. Ehi, sono qua, sono spostato, sono andato a prendere mia mela. Una di quelle qualità, tipo me la mangio. Fa bene la frutta. Tutta l'estate adesso ho visto che stanno iniziando le pesche, le ciliegie, quindi ben vengano. Poi inizieranno appresso melone, angurie, susine, insomma, frutta estiva è sempre migliore. È bella su cosa? Guarda, le pesche secondo me è uno dei frutti migliori. Se le trovi buone sì, se le trovi dolci, ma non è sempre. Ci sono quelle di senoli che sono piccole, ma sono di una dolcezza, di una bontà unica. Sì, le conosco, tutta quella zona, sorse senoli, sono fenomenali quelle pesche. Poi se tu le sbucci, te le fai a pezzi, le metti nel vino rosso, sono una favola. Lo so, mamma mi ce le faceva, però le voleva un po' durette per fare così. E anche se sono, non dico mollicce, però se sono ben mature, no, col vino rosso è la morte loro. Sì, sì, sì, c'è molta gente che le mangia così. Mi piacciono così le pesche. Quando ho la possibilità lo faccio quasi sempre. E poi ti alzi dalla sede. Già mi alzo, dopo mi faccio il caffè. Eia. Va bene, io adesso sono in uscita perché mi sono preparato, me ne vado al centro, mi trovo un parcheggio così poi per rientrare facciamo prima. E niente, ce la risentiamo sicuramente domani. Oggi è, mi sa, l'ultima di campionato di Serie A per chi guarda le partite, anche se quello che è rimasto in ballo è il campionato tra Inter e Milan. Spero di riuscire a vedere qualcosa stasera quando rientro. Ce la risentiamo, ciao Gianni l'altro, ciao Natalino, Claudio sei in ascolto, non so chi altro ci sia, io devo fare uscita e quindi chiudo. Alle prossimine ascolto un attimino per il saluto finale, poi ce la risentiamo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Carlo, ciao, divertiti e fate una buona passeggiata, ciao, avanti Natalino, Gianni lo profeta. Eia, buona serata e buon tutto, dai, mentre mangio la mela. Salutoni, dai, buona serata e ci aggiorniamo alle prossime. Ciao, ciao Carlo. Ciao, alle prossime, buona serata. Marco, sei ancora all'ascolto? Eia, dai, già, io sto andando, dai, che sono da prendere la mia compagna al lavoro, ci sentiamo. Bene, mela, dai, buona serata anche a te. No, stavo chiedendo se ci fosse ancora Marco in ascolto. Ciao, ciao di nuovo. Ehi, piano piano. Si stanno dileguando tutti. Io c'ho un occhio sì e uno no. Ero dormito, tra virgolette. Abbio posso andare, dai. Poi anche io. Fai il passaggio e poi chiudo anch'io. Sì, ogni tanto io sono sdraiato sul divano, spalle al baraccocco. Ogni tanto vengono questi momenti in cui di estasi, dove proprio ti viene quel bel sonno naturale, al contrario della notte che devo combattere per dormire. Oia. A fase invertita. Tutto pervertito. Oia. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto. Sta studiando. Dopo lo devo interrogare pure, sì. Lui può interrogare adesso. Oia. Vabbè. Sette e un quarto, dai. Facciamo 7:30 e poi chiudiamo, dai. Sì, anche perché ho un emisfero ancora spento, in stand-by. L'altro emisfero si sta risvegliando adesso. Con quello ho percepito la chiamata. sono almeno al 100%. E poi, boh, altre cose da raccontare, sono un po' così, purtroppo non si può andare da nessuna parte, domani è pure domenica, mamma, e domani non passa più. Speriamo che ci sia un po' di propaganda, tanto per chiamare Sud Italia come sempre, così tanto per dare due controlli. Troia, domani è domenica, vediamo cosa riusciamo a combinare. Vabbè, visto che stacchiamo qua già, il qua rimane sempre acceso, ma... Hey, I'm like, no, don't worry, worry. Vabbè, dai, ci aggiorniamo, magari ci sentiamo più tardi domani, dai. Ok, buona serata, ciao Marconi. Ehi, ciao Gianni, buona serata, buon tutto, ci sentiamo.